Proprio in questi giorni mi fa male il ricordo dei tempi in cui non era obbligatorio essere d'accordo. Forse è semplice una passeggiata, un po' d'aria fresca, ossigeno da inspirare che rinfresca. Ma ora i militari mi controllano, telecamere mi seguono, non mi mollano, disponibili a farci monitorare. Dai nostri confini non ce ne possiamo andare. Accettare il veleno da iniettare, la legge parla chiaro, si deve rispettare. E io che sono scappato mi devo nascondere, fingo di essere uno di loro, mi devo confondere, perché non so che fine mi faranno fare. Sono un numero, una loro proprietà da usare. Mando messaggi in codice che nessuno può decifrare. Sento le forze che stanno per mancare. SOS. Se qualcuno è sopravvissuto, chiedo aiuto, chiedo aiuto. SOS. Se qualcuno riesce a sentire, forse insieme riusciremo a fuggire. SOS. Se qualcuno è sopravvissuto, chiedo aiuto, chiedo aiuto. SOS. Se qualcuno riesce a sentire, forse insieme riusciremo a fuggire. Ora che non c'è più tempo e tutto sembra spento, mi rendo conto di quanto è importante andare contro vento. Mentre tutti corrono a svolgere il compito assegnato, tutti orgogliosi di servire lo Stato. Ma quanto è importante il lento naturale svolgersi delle cose. Non si può velocizzare la fioritura delle rose. E se il sole non sorge la primavera non può arrivare. Un eterno inverno e nessuno ci può scaldare. Io ho fatto un lungo viaggio, vengo dal futuro. Di quello che dico sono molto sicuro. Di credite potenti, violentate il presente. Non siete più esseri umani, siete diventati gente. Andate felici verso l'autodistruzione, verso una nuova dittatura che chiamate rivoluzione. Ma siete tranquilli, fate le parte del branco. La polizia è sempre al vostro fianco. E se qualcuno è sopravvissuto, chiedo aiuto, chiedo aiuto. SOS. Se qualcuno riesce a sentire, forse insieme riusciremo a fuggire. SOS. Se qualcuno è sopravvissuto, chiedo aiuto, chiedo aiuto. SOS. Se qualcuno riesce a sentire, forse insieme riusciremo a fuggire. Non ricordo neanche bene come sono arrivato fin qui. Hanno azzerato le menti e tutti contenti così. Quelli in fondo alla classifica sono i cattivi individui, giudicati da quanto sono produttivi. E tutti confermano e premono in Dio. Nessuno sente il freddo che sento io. Non ci sono più opinioni, non si può più ragionare. Un pensiero unico, un limite da non superare. Una strada unica, un'unica corsia. La ribellione è una malattia, una forma di pazzia. Ma c'è una medicina per tornare a lavorare come una formichina che non fa domande e serve un padrone, una cavia per la sperimentazione che non tenta di fuggire dalla gabbia, pronta a immolarsi per la patria. E se qualcuno è sopravvissuto, chiedo aiuto, chiedo aiuto. E se qualcuno riesce a sentire, forse insieme riusciremo a fuggire. SOS. Se qualcuno è sopravvissuto, chiedo aiuto, chiedo aiuto. SOS. Se qualcuno riesce a sentire, forse insieme riusciremo a fuggire. Questi umanoidi sembravano sinceri, sembra strano, ma ricordo di sentimenti veri, di quando non si facevano le cose solo per convenienza. Ora non ricordo più il significato di pazienza, ricordo notti stellate, un abbraccio e il calore, poi un'esplosione e tanto dolore. Una lacrima scendeva sul viso, poi tutti in fila senza sorriso. Ora che siamo macchine da sfruttare, quella sensazione non la riesco più a provare. Quindi basta, fanculo, guerra e competizione, al vostro orgoglio e alla vostra nazione, ai vostri successi costruiti col nostro sudore, le vostre medaglie guadagnate col nostro dolore. Questa notte sono pronto a disertare, verso l'ignoto non mi può più fermare. E se qualcuno è sopravvissuto, chiedo aiuto, chiedo aiuto. SOS. Devo andare via ad ogni costo, se vuoi venire con me qui c'è sempre il posto. SOS. Se qualcuno è sopravvissuto, chiedo aiuto, chiedo aiuto. SOS. Devo andare via ad ogni costo, se vuoi venire con me qui c'è sempre il posto. SOS. SOS. Hey.